Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Buonasera, signora, sono io, Mark Daly. Ah, l'ingegnere! No, no, signora, il pianista, si ricorda. Senta, vorrei parlare con Carlo, è in casa? No, è proprio uscito. But nobody's watching, see, nobody came. So please leave the spotlight, that's not of your place anymore. And all of a sudden it's clear that I'm glad I'm out of that. Cause nights we restore us from days where the logic's prevail. And once again the words that could distract me from where I was directed. Thank you. È vero che tutti gli uomini che conoscevi erano mazzieri, che dicevano di essere immersi completamente nella distribuzione delle carte ogni volta che davi loro protezione. Conosco quel tipo di uomo. È difficile tenere la mano di chiunque. Sta raggiungendo il cielo solo per arrendersi. E poi, spazzando via i jolly che lasciò indietro, tu riscontrasti che non ti lasciò molto, nemmeno risate. Come ogni mazziere, egli stava guardando la carta che è così nobile e feroce, ed egli non avrà mai bisogno di distribuirne un'altra. Lui era solo un qualche Giuseppe in cerca di un presepe. E poi, poggiando sul davanzale della tua finestra, egli dirà che un giorno tu esaudisti i suoi voleri per indebolirlo con il tuo amore, calore e protezione. E poi, prendendo dal suo portafoglio un vecchio orario dei treni, egli dirà: «Ti dissi quando venni che ero uno straniero. Ma ora un altro straniero sembra volerti per ignorare i suoi sogni, come se fossero il fardello di qualcun altro. Oh, tu hai visto quell'uomo prima, il suo braccio d'oro distribuire le carte. Ora è arrugginito, dai gomiti al dito, ed egli vuole negoziare il gioco a cui partecipa per protezione. Ah, tu detesti vedere un altro uomo stanco deporre la sua mano, come se stesse rinunciando al sacro gioco del poker. E mentre parla dei suoi sogni per addormentarsi, tu noti che c'è un'autostrada, accartocciata come fumo, sopra la sua spalla. Tu gli dici di entrare e sedersi, ma qualcosa ti fa cambiare idea. La porta è aperta e non puoi chiudere il tuo rifugio. Tu provi l'ansia della strada. Apri, non essere impaurito. Sei tu il mio amore, tu che sei lo straniero. Bene, io stavo aspettando, ero sicuro che ci saremmo incontrati tra i treni che stavamo attendendo. Penso sia giunto il tempo di salire a bordo di un altro. Ti prego, capisci, io non ho mai avuto una mappa segreta per arrivare al cuore di questo o qualcun altro. Quando parla così, tu non sai cosa sarà dopo. Incontriamoci domani, se desideri, sopra la spiaggia, vicino al ponte che stanno costruendo su un incessante fiume. Poi egli lascia la piattaforma per il vagone letto che è tiepido. Tu realizzi che sta solo annunciando un altro rifugio. E adesso giunge a te. Lui non era uno straniero. E tu dici, ok, il ponte o qualche altro posto dopo. Questa era Stranger Song di Leonard Cohen. E la seconda parte di Eclettica, quella che state ascoltando e la voce che state sentendo in questo momento, è quella di Giulio Caperdoni. Giulio è radiorockfm.com e l'indirizzo di mail a cui scrivere. Seconda parte che si è aperta con due brani italiani in sequenza, poi siamo andati oltreoceano e stiamo per ritornare in Italia. Due brani italiani, prima di tutto dalle Puglie, Il Genio con Pop Porno, e poi da Bologna, I Fige con Down in Disaster. Invece ci siamo appena ascoltati Blessed in Carolina da parte degli Helvetia. E ora la volta di quello che sarà il nuovo album degli Yuppie Flu, che uscirà per Home Sleep, una data ancora non indicata, è già indicato il titolo, Fragile Forest, e c'è la possibilità, non solo per me ma per tutti voi, di downloadare gratuitamente questo brano. Andate sia sul sito della Home Sleep, che è la loro etichetta, sia sul il sito stesso degli Yuppie Flu, è facile da trovare con un qualunque motore di ricerca, e troverete appunto la possibilità di scaricarvi Call Device. Per il momento ve la faccio ascoltare io. It's too hard to remember. Just remember that letters can switch to numbers, but to number you stay. Bitter fate, you surrender at last. Whispers of news lost with the pain. It was fun, but then I guess. Dream of some cold Le storie della strada sono mie. Le voci spagnole ridono. Le Cadillac vanno strisciando ora attraverso la notte e il gas intossicante. E io mi sporsi dalla mia finestra, malato, in questo vecchio hotel che scelsi. Sì, una mano sul mio suicidio, una mano sulla rosa. Io so che tu udisti che è finita ora e la guerra dovrà sicuramente venire. Le città sono distrutte a metà e gli uomini medi sono andati. Ma lasciami chiederti ancora una volta, figlio della semioscurità, tutti questi cacciatori che stanno urlando ora parlano per noi. E dove vanno tutte queste autostrade ora che siamo liberi? Perché gli eserciti marciano ancora che erano tornati a casa da me? Oh, signora con gambe così belle, oh, straniero al tuo volante, sei bloccato dentro la tua sofferenza ed i tuoi piaceri sono una garanzia. L'età del desiderio sta dando vita ed entrambi i genitori chiedono alla baglia di raccontargli fiabe su entrambi i lati del vetro. Ed ora l'infante con il suo cordone è tirato dentro come un aquilone ed un occhio riempito con cianografie, un occhio riempito con la notte. Vieni con me, mia piccola, troveremo quella fattoria e cresceremo erba e mele e terremo gli animali al caldo. E se per caso mi sveglio nella notte e ti chiedo chi sono, portami al macello, aspetterò là con l'agnello. Con una mano sulla stella di Davide ed una sulla ragazza, io sarò in bilico su un pozzo dei desideri che tutti gli uomini chiamano mondo. Noi siamo così piccoli tra le stelle, così larghi contro il cielo. E, persi tra la metropolitana affollata, io cerco di afferrare il tuo occhio. Questa era Stories of the Street di Leonard Cohen. That's how it starts. We'll go back to your house. We check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, all the better, because you know we're gonna be a place. If you're worried about the weather, then you pick the wrong place to stay. That's how it starts. And so it starts. Switch the engine on. We take control to the heart of the sun. One of the ways to reach your age. And if the sun comes up, if the sun comes up, if the sun comes up, then it's still the one that's staggered. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 18, volume numero 3, indice, Chris Bathgate, School of Language, Tupolev, White Rabbits, Blood on the Wall, The Orb, Il Genio, Fige, Helvetia, Yuppie Flu, The Main Drag, a rifare gli LCD Sound System. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.